Ciao a tutti, siamo alla crisi. Voce spia al dram. I'm Yeah. molto bene. Grazie ragazzi. Ok, serata particolare questa sera, ma è bellissimo comunque essere qua di nuovo al Cox dopo 7 anni. Siamo felici e onorati di poter comunque in qualche modo cercare di tenere alto il morale di questa sera, appunto, che viene dopo una giornata difficile per tutti i compagni del Cox e tutti quelli che credono ancora nei valori delle occupazioni e delle autogestioni. Poi io non sono assolutamente il più bravo a fare discorsi di questo tipo. Fate conto che questa sera la mia idea era: salgo sul palco, la prima cosa che dico è una barzelletta di quelle del bar, cioè, e ho dovuto cambiare il programma radicalmente, ma meglio così. Niente, e grazie di nuovo ovviamente a Pelle che ci sta facendo i suoni, che ci ha dato la possibilità di essere qua questa sera, grazie ai Tenia che hanno suonato prima di noi, ma soprattutto, come dico sempre, grazie a voi che siete il concerto. Ed è bello rivedere tante facce conosciute e anche tante facce nuove. Facciamo che andiamo avanti. Let's go, Grazie, troppo buoni. Ma come si fa? Come si fa? Era molto più facile. Allora, abbiamo fatto quest'anno, ci siamo svenati, abbiamo stampato su vinile il nostro primo album del 2005. Ce l'abbiamo lì al banchetto in due versioni, rosso e nero. Guarda un po'. I colori di Milano mi suggeriscono. E quindi compratelo. Cioè. Okay, il prossimo pezzo è tratto da quel disco lì che abbiamo ristampato. Non ci sono più. Yeah. Molto bene, bravi. C'era freddo prima, eh? Comunque adesso non so voi, però è cioè suonare in Cox è bellissimo. Cioè, non si può chiedere di meglio. Oh, sei bellissimo! Mamma, mamma, sei tu mamma! Che il prossimo pezzo si chiama Paura Colazione. Non ci voglio ritornare, non ho più voglia di rivedermi lì. Fare pugni con i sogni, di rispetto nel nervoso. Non ci voglio ritornare, non ho più voglia di rivedermi lì. Fare pugni con i sogni, con i tremori da nervosa. Non sembra funzionare bene e mi ritrovo la paura con l'azione, con l'ansia fuori dalla porta. E mi ritrovo la paura con l'azione, con l'ansia fuori dalla porta. Come ogni volta shooting your game, let it go. tutto difficile, non ci arrivi. Quello che vedo, quello che sento, quello che capisco. Non è arte, quelle cose forse sì, se ne frega. Non capisco dove sia il problema. Casate, belli scatenati così, La gioventù è una cosa meravigliosa. Bravissimo. A proposito di gioventù e di avercela, il prossimo è l'ultimo pezzo. So, dico sempre all'ultimo così per spiazzare un pochettino. Dico all'ultimo, l'ultimo pezzo. Quindi di nuovo, grazie a tutti voi che siete stati qua, che vi siete spaccati le costole qua sotto. Cazzi vostri. Ricordo come sempre, ci tengo a dire a tutti quanti, come sempre, non fate gli stronzi, comprate delle cose. No stronzi, No stronzi. Grazie a tutti, di nuovo, ultimo pezzo. Ciao, belli, ciao. We'll be right back. così, non è così. Io non spesso ci credo qualcuno, mi convinco a sua volta gli amici. Questo tuo video che hai dato mai, non è allora ne facciamo due, va bene, no, inizia a essere, ho le medicine da prendere entro. Ne facciamo due, una vecchissima e una vecchia. Abbiamo queste due, abbiamo due categorie di canzoni noi, vecchissime e vecchie. Questa è vecchissima. Questa è veramente l'ultima, grazie a tutti e buonanotte! Bye. Grazie a tutti.